Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Venerdì scorso abbiamo parlato del grande successo del Politecnico di Milano, del suo prototipo Apollo di auto solare con cui ha vinto la scorsa edizione della Shell Ecomarathon e fatto segnare il record per il veicolo più efficiente, arrivando a sfiorare i 10.000 km con l'equivalente di un litro di benzina. La Shell Ecomarathon è appunto quella competizione nella quale vince chi consuma di meno. Questa sera continueremo la nostra conversazione con il professor Mastino, che ha guidato il team vincente, per parlare di un oggetto, il quadriciclo elettrico, che è stato anche oggetto di un bando della Regione Lombardia e che sembra essere il miglior candidato a guidare, per così dire, la transizione verso la mobilità elettrica. Infatti l'identikit di questi oggetti che stanno per arrivare sul mercato e di cui c'è un fiorire di prototipi sono quanto di più simili al veicolo elettrico del futuro, di cui stasera ci apprestiamo a tracciare un identikit e soprattutto a individuare i segni particolari. Ma diamo il benvenuto, anzi il bentornato, al nostro ospite Giampiero Mastino, docente di costruzione di veicoli del Politecnico di Milano. Buonasera Mastino, bentornato a Mr. Kilowatt. Buonasera a tutti. Allora Mastino, quali sono gli ingredienti che faranno il veicolo elettrico del futuro e che vediamo in qualche modo anticipati in questi quadricicli leggeri? Allora, ci sono diverse variabili. Senz'altro la prima è la riduzione della massa. Perché si vede che per un veicolo anche urbano di tipo utilitario la riduzione della massa del 10% può portare a un incremento delle prestazioni in termini di consumo dell'8-9%. Come dire che la stragrande maggioranza dei consumi sono legati al peso del veicolo, quindi dimezzare i pesi è quasi dimezzare i consumi. Precisamente. E come si fa a dimezzare i pesi? Dimezzare i pesi in teoria si potrebbe, soltanto che il veicolo costerebbe di più, perché bisognerebbe farlo di materiali che costano molto e quindi ci sarebbe poi il problema dell'acquirente che sarebbe in difficoltà. C'è un costruttore che mi risulta che sta investendo proprio per un quadriciclo nella costruzione di telai in carbonio. Per adesso i telai in carbonio sono utilizzati nelle vetture di altissime prestazioni, dove i costi non sono un deterrente all'acquisto dalla vettura, ed è prevedibile che nei prossimi anni questa tecnologia verrà estesa, come avviene sempre nel campo della costruzione dei veicoli, ai veicoli di minore valore unitario. Sempre ricordiamoci che il costo è il driver principale. Certo. Ecco, senta, abbiamo parlato della carrozzeria. Qual è l'altro elemento, se ce ne sono altri, fondamentali che devono cambiare nell'architettura della macchina per andare verso questi veicoli elettrici soprattutto? Ce ne sono due: la resistenza al rotolamento dei pneumatici e la resistenza aerodinamica, che è importante anche nella marcia in città. La resistenza di rotolamento dei pneumatici, una diminuzione del 10%, porta a un miglioramento dei consumi del fino al 3%, e altrettanto più o meno per la resistenza all'aerodinamica, quindi un miglioramento del 10% porta anche qui a un miglioramento dei consumi del 3-4%, quindi sono tutte variazioni che sommate possono fare la differenza e quindi vanno tutte esplorate pensando eventualmente a architetture differenti di veicolo basate magari appunto sull'utilizzo maggiore per i piccoli spostamenti dei quadricicli leggeri, che sono meno sicuri di un veicolo reale per quanto riguarda... D'altra parte i motorini non sono molto più sicuri, infatti, credo. Infatti, è una via di mezzo, insomma, senz'altro si sta facendo uno sforzo importante nel campo dei quadricicli, stanno arrivando le prime norme per fare in modo che almeno un quadriciclo che interferisce con un altro quadriciclo sia il più sicuro possibile. Senta, uno degli altri aspetti progettuali che io a dire il vero ho capito essere fondamentale è lo spostamento del motore da un motore singolo che si trova sotto il cofano a quattro motori posti nelle ruote, perché vuol dire tante cose in meno che girano, che si muovono, differenziali, cambi. Questo mi sembra un passaggio fondamentale, no? Lei sta proprio parlando del progetto Green Fund della Regione Lombardia che è stato presentato al Kermesse Aria nuova a Monza venerdì scorso. E a quale voi però avete partecipato? Perché noi abbiamo dato il nostro contributo alle aziende che hanno il pool di aziende che ha proposto questo prototipo nell'ambito delle attività del sistema produttivo automotive lombardo. E i quattro motori nelle ruote sono una rivoluzione nell'architettura dei veicoli, perché lasciano molto spazio all'interno del veicolo, richiedono la riprogettazione delle sospensioni, però consentono una vastità di funzioni aggiuntive che attualmente sono anche di difficile implementazione per questioni normative, perché nessuno mai ha pensato che si possa fare un veicolo senza sistema di sterzo, però se io metto quattro motori elettrici nelle ruote io posso far sterzare il veicolo senza bisogno di metterci uno sterzo, chiaro, faccio ruotare di a velocità diversa la ruota interna e la ruota esterna rispetto alla curva, certo. E questo bando, come previsto, è sfociato in un oggetto fisico, in un prototipo che si chiama Green Fan, è appunto un quadriciclo elettrico. Ce lo può descrivere molto rapidamente quali sono le caratteristiche principali? Sì, è un veicolo che ha quattro motori elettrici nelle ruote, quattro ruote intelligenti che colloquiano con il sistema controllato di bordo e... Va bene, grazie a Gian Piero Mastino di essere tornato a trovarci, buonasera. Buonasera a tutti. Ha una carrozzeria di carbonio. Beh, in pratica è la descrizione di questo fantomatico veicolo elettrico di cui abbiamo tracciato un po' l'identikit durante questa intervista, no? Sì. Va bene, grazie Gian Piero Mastino. Grazie mille, buonasera a tutti. È davvero tutto, appuntamento a domani.